Cronache Meridiane di Gianluca Nicoletti. La vittima Marco Vannini, ventenne di Ladispoli, ucciso la sera del 17 maggio scorso. Il presunto colpevole. Antonio Ciontoli, di 48 anni, luogotenente della Marina Militare, padre di Martina, la fidanzata di Marco. Tutto è successo in una casa a Ladispoli, la casa di Ciontoli, per una ferita accidentale e mortale, come risulterebbe dalla versione del sottufficiale della Marina, appunto. È appunto un sottufficiale che ha descritto un incidente. L'Italia è appassionatissima di quello che può essere accaduto, di sentire le versioni, non tanto per capire chi ha ragione e chi ha torto. Chi muore ha sempre torto. Un ragazzo è stato ucciso con un colpo di pistola mentre faceva il bagno nella vasca da bagno della famiglia della fidanzata. Erano presenti in casa oltre il padre, la madre della fidanzata, i fratelli della fidanzata, in una bella villetta a Ladispoli. Nulla da eccepire, la famiglia modello, la famiglia media a cui tutti ambiscono come sogno estremo delle proprie aspettative di vita, nella quale però si consuma qualcosa che ci dovrebbe far riflettere. Non ci interessa capire bene e entrare nelle dinamiche del caso, una dinamica di protezione familiare. In una media famiglia italiana, con persone sorridenti, occupate, quindi mediamente con meno problemi di tante altre famiglie, può accadere che qualcuno uccida qualcuno, tutti presenti, qualcuno affettivamente legato comunque con la famiglia, perché è il fidanzato ufficiale di una figlia, quindi un fidanzato riconosciuto, accettato in famiglia. Se arriva a farsi il bagno nella vasca da bagno della famiglia, con tutta la famiglia presente nelle altre stanze, e se il padre può entrare nella stanza da bagno dove il fidanzato e la figlia fa il bagno nudo, giocarci e scherzarsi, e se il gioco poi è far finta di sparargli davvero, è un'altra vicenda. La vicenda è quello che è accaduto da questo delitto in poi. La famiglia si è come chiusa a riccio, la famiglia ha come difeso il suo segreto, la famiglia è stata improvvisamente unita attorno a un delitto che coinvolgeva tutti e che rende tutti complici. Ecco, per quale meccanismo anche la più felice delle famiglie felici può in realtà diventare una sorta di perverso luogo in cui un delitto diventa il cemento affettivo? 800 24 0024. A tra poco. Melog, Cronache Meridiane. A me mi arriva da una telefonata intorno a 00:40, il 18 maggio già era, mi arriva questa telefonata dove mi parlava Mary e mi diceva, la madre di Martina, dove mi diceva Marina, vieni che Marco è caduto dalle scale, che lo stanno portando con l'ambulanza. Questa storia, che a noi, a tutta Italia, devo dire, sta particolarmente a cuore, insomma riserva ogni tanto delle sorprese, perché adesso la versione di Antonio Ciontoli è cambiata. Allora, la versione di Antonio Ciontoli, cioè colui che ha sparato al ragazzo, e questo, insomma, solo quelle cinque persone sanno veramente che cosa è successo lì dentro, però Antonio Ciontoli aveva detto una cosa, aveva detto che l'arma era scivolata, e adesso dice non più che l'arma è scivolata, ma che ha sparato ed ha sparato per scherzo. Io adesso devo andare in pausa. Allora, però non facciamo esattamente lo stesso mestiere che fa egregiamente Federica Sciarelli, quindi a noi non ci interessa capire qual è stata la dinamica per cui in quel momento la pistola ha sparato, non ha sparato. La prima versione è che fosse scivolato su un pettine appuntito. Mi sembra quelle versioni ridicole che danno quelli che vanno con imbarazzanti penetrazioni al pronto soccorso. Dico, sono scivolato, scusate, per caso sono caduto su questa damigiana. Non è esattamente così. In effetti, che gli abbia sparato è innegabile, perché le perizie balistiche, fino a prova contraria, sono abbastanza precise. Ha sparato a una persona che era il fidanzato dell'amica dentro casa. Questo è roba da inquirenti, non ci interessa. Quello ci interessa è capire come fa una famiglia improvvisamente, una famiglia che gestisce il proprio quotidiano esattamente come lo gestite voi ogni giorno, fatto di piccoli e grandi problemi, di piccole e grandi soddisfazioni, di obiettivi raggiungibili, che sono tutti radunati in fondo in una giornata, una serata primaverile, nella loro villetta, con la bella macchina parcheggiata nel garage, con il fidanzato che fa il bagno, probabilmente saranno dati tutti a mangiare il pesce pesce o qualcosa del genere. Ecco, i presenti diventano come fosse una sorta di cosca mafiosa nella quale si è consumato un delitto di cui tutti sono complici e tutti devono essere comunque in qualche maniera responsabili per tutelare l'unità della cosca, in questo caso l'unità della famiglia. 800 24 00 24, fino a che punto una famiglia può tenere dentro di sé un segreto inenarrabile, irraccontabile? Giuseppe Neri, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Giuseppe Neri è un neuropsichiatra, presidente della Società Italiana Neurologi Ospedalieri. Ha osservato quello che nelle maglie delle intercettazioni, delle puntate di Chi l'ha visto, di quello che hanno detto gli inquirenti, questo caso. Cominciamo a capire qualche cosa che secondo te vale la pena di sottolineare. Beh, la prima cosa che emerge è che sicuramente il contesto familiare rimanda a quelle situazioni ben descritte a metà degli anni 50 nel nostro paese da Banfield, soprattutto per quanto riguardava il sud, e che sono passate poi nel lessico condiviso con il termine di familismo amorale. Cioè, viene in mente che un ragazzo di 20 anni che dall'età di 17 sta con tua figlia e che tu hai inglobato nel tuo sistema familiare perché passa buona parte del tuo tempo a casa tua, viene colpito da un colpo di pistola che gli trapassa la spalla, arriva al polmone, poi si saprà, arriva pure al cuore, e la prima cosa che scatta è non soccorrere, salvare questa persona, avere interesse per la vita e la sopravvivenza di questo ragazzo di 20 anni, potrebbe essere anche tuo figlio, ma vedere in quale modo questo evento, evidentemente non voluto, accidentale, possa non recare danni al sistema familiare, al capofamiglia responsabile dell'evento e a tutto ciò che gira intorno. E da quel momento la scala delle priorità viene sovvertita. Non è la vita di una persona in gioco che è il numero uno, ma è come evitare che questo arrechi problemi. Da qui tutta una serie di iniziative che saranno ben descritte, il ritardo nel chiamare il 118, tutto quello che si vuole, ma quello che è importante mettere a fuoco, almeno dal mio punto di vista, è che tutta la famiglia, il padre, la madre, la ragazza di cui il ragazzo era fidanzato, il fratello della ragazza, la fidanzata del fratello della ragazza, obbediscono a una specie di imperativo categorico che non c'è nemmeno bisogno di esprimere tanto, che bisogna controllare tutto, evitare che risulti che è stato un fatto che possa mettere a repentaglio la reputazione di questa persona che è un militare e che lavora alla presidenza del Consiglio, e quindi di conseguenza prima di tutto coprire, prima di tutto evitare che si crei una situazione di pericolo per il capofamiglia. Il resto, compresa la vita in pericolo di questo ragazzo di 20 anni, viene dopo. Ecco, l'escalation di questa complicità è drammatico e agghiacciante se si vede quello che è appunto la cronologia di quello che è accaduto. Viene chiamata l'ambulanza a un certo punto, probabilmente dopo un consulto familiare, la chiama uno dei ragazzi, uno dei fratelli della fidanzata, ma viene come interrotta questa telefonata a un certo punto, ma dice: ma c'è un ragazzo qui, si è sentito male, uno scherzo, è diventato bianco, non riesce, ma no, non importa. Quindi qualcuno decide di chiamare l'ambulanza, per questo sta morendo, una pistolettata di una pistola d'ordinanza presa in pieno dentro. Io immagino che tu sei medico, quella vasca da bagno sarà stata piena di sangue, perché il sangue esce a litri quando ti trapassano un polmone e ti passa in quella maniera. Beh, non abbiamo gli elementi, perché da quello che si legge sui giornali è stato colpito prima alla spalla, poi dalla spalla al polmone. Il discorso è che quello che si desume è che lui sicuramente stava male, sicuramente ha avuto tempo di gridare e di lamentarsi, perché mi sembra di aver letto da qualche parte che nel sottofondo o di una chiamata al 118 o di qualcosa di simile si sentiva un ragazzo urlare. Che si lamentava, e sicuramente non c'è bisogno di essere medici o professionisti della sanità per capire che uno che ha una pallottola in corpo deve essere il più presto possibile portato in ospedale. Quindi addirittura se l'ambulanza tarda o non riesce ad averla, lo carichi in macchina e lo porti nel primo pronto soccorso disponibile. Da quello che ho letto sono passati fra 40 minuti e un'ora fra la prima e la seconda chiamata al 118, perché tutto il sistema familiare era concentrato su come proteggere questo padre che involontariamente, è chiaro, è ragionevole pensare che fosse così, ha comunque sparato a un ragazzo di 20 anni che rischia di morire. Ma il fatto che rischia di morire è secondario rispetto alla necessità di coprire, di evitare guai, di tenere sotto controllo, di salvare la reputazione di qualcuno che ha un incarico prestigioso, essendo tra l'altro un militare, presso la presidenza del Consiglio. Poi c'è una seconda telefonata, poi arriva l'ambulanza, ma pensando di soccorrere un ragazzo che era stato sotto shock, semplicemente passa a dargli un Valium perché è caduto sul petto. In realtà trova uno in fin di vita, agonizzante. Ci sono altri elementi, ritorno gli ascoltatori poi delle successive intercettazioni. Ecco, al pronto soccorso il padre prova a dire che di non dover scrivere nel rapporto che era stato un colpo di pistola, minaccia, dice non dite che era un colpo di pistola. Anche questo è folle, pensare un militare che non debba fare nel suo rapporto, l'ufficiale che sta al pronto soccorso, il rappresentante diciamo della polizia, dei carabinieri al pronto soccorso, che è stato uno sparo. Ma poi c'è una telefonata della fidanzata addirittura del morto, di Federico, parlando al telefono dice ma sì, in fondo sai, è quasi meglio che è andata così, perché se fosse sopravvissuto sarebbe rimasto handicappato e sarebbe suicidato. Parla del suo fidanzato che il padre ha ucciso. Adriano, buongiorno. Sì, buongiorno professor Nicoletti. Buongiorno. Ma professore di nulla, magari il professore, un semplice cittadino. Ti alzi la voce però, Adriano, la sentiamo male. Sì, mi sentite? Sì, allora? Parli vicino al microfono. Sì, ma io ascoltavo il vostro caso che dai media qualche mese fa, ormai purtroppo sono già passati dei mesi, mi ha veramente, veramente incuriosito. Concordavo con quello che diceva il suo ospite a proposito della forza che può avere una famiglia nel tirar fuori veramente tutto quello che ha per poter nascondere o forse magari chissà mantenere un segreto di qualcosa che sia successo. Sarà forse figlia di una società che forse sta sicuramente cambiando anche i valori della famiglia, tanto da portarla addirittura a... Beh, io la vedo piuttosto arcaico invece come meccanismo, vedo una sopravvivenza arcaica in una società che dovrebbe essere moderna, sinceramente. Il clan si stringe attorno a un delitto, che è un delitto che ha qualcosa di epico, non la vedo tanto come una sorta di mancanza di valori. Qua non è che si tratta di valori, ma è talmente forte, talmente fuori dalla nostra capacità di percepire quello che noi consideriamo normale, che la vedo un po' difficile della chissà quale valore mancato, che improvvisamente dovevano tutti, come si legge in qualche intercettazione, pararsi il culo. Pararsi il culo era più importante che salvare la vita al fidanzato e alla figlia. Quindi dove sono gli affetti, dove sono i legami, dov'è diciamo quella sorta di elemento che noi chiamiamo umano che tiene assieme le persone? Beppe Neri. Sì, infatti l'elemento cardine è proprio, senza volere fare del moralismo, del buonismo tanto al chilo, è che nella priorità, perché quando c'è in campo, in ballo una vita umana, bisogna contare i minuti per portare soccorso. Ecco, la cosa fondamentale a quel punto, perché parliamo di familismo morale, è che il clan si chiude, e anche quelli che sono equiparati a membri del clan, cioè la fidanzata del fratello della ragazza, tutti hanno come unica priorità evitare che papà perda il posto, evitare che papà venga imputato di qualcosa che potrebbe pregiudicare la sua carriera, e costruire una ricostruzione dei fatti coesa, coerente e condivisa da tutti, che faccia apparire tutto il più possibile un incidente. Il problema è che è difficile pensare che uno che arrivi in un pronto soccorso, ti correggo Gianluca, non è il pubblico ufficiale, cioè è il medico di pronto soccorso, medico, che sì, per legge è tenuto a fare, scusa, un referto in cui segnala che ha osservato presso un paziente arrivato in pronto soccorso una ferita che ha le caratteristiche di una ferita da colpo di arma da fuoco. Beh, allora la cosa più importante è preparare una narrazione che sia coerente all'obiettivo di proteggere il padre, non portare soccorso il più presto possibile e far arrivare questo ragazzo, che poi sarà portato su un elicottero e arriverà al Gemelli in fin di vita, il più presto nel posto dove possa essere curato, perché è molto più importante salvare l'immagine della famiglia, del capo famiglia e questa specie di clan che si è costituito, che non salvare una vita umana. Ecco, però a questo punto mi serve il pensiero del neuropsichiatra. Quale meccanismo scatta in una sorta di elemento mentale condiviso, perché qui non sono più le singole persone, diventa una sorta di aggregato mentale condiviso, addirittura la fidanzata del figlio, potrebbe dire meglio che c'entro con voi, ma siete pazzi, scappo via, non voglio saperne dei fatti vostri, resta lì, resta ingabbiato, resta in un circolo chiuso. Ecco, possa ragionare però su un termine di così poca razionalità, perché io capirei una cosa più facilmente camuffabile, potrebbe esserci un razionale, cioè, beh, salviamo il posto al papà, siamo cinici spietati, ma magari questo invece che dire che l'abbiamo buttato alle scale è scivolato alle scale, ci sta tutto. Ma un ragazzo trapassato da un proiettile, di una pistola d'ordinanza, quindi rintracciabile l'origine di quel proiettile, come possono pensare che di passarla liscia? Ecco, per quale meccanismo si entra nel campo della pura follia? Non è più una cosa razionale. Ma forse più che nel campo della pura follia, io vedrei un modello, appunto, in cui mi richiamo sempre al concetto di femminismo amorale, in cui il clan familiare ha un capo clan. Qui c'è un capo clan che è un militare, che porta la sua pistola d'ordinanza in casa, che la apre, la scarrella nella sala da bagno, e quindi c'è un capo che ha deciso in pochi secondi quali erano le priorità, che ha impartito delle disposizioni, secondo me anche spontaneamente, con una impostazione di tipo militare, e ci sono i sottoposti che si adeguano e adottano la versione che è più congrua con l'obiettivo di, come dicevi tu, salvare il deretano del sistema familiare e dell'interessato. Quindi è un ordine che non si discute, come dicevano gli ufficiali dell'SS, perché era un ordine che non si discute. È un ordine che non si discute anche perché io sono stupito che in una fascia di età post-adolescenziale, dai 17 ai 20 anni, questi ragazzi sono ormai di casa, questo qua come fidanzato frequentava e stava stabilmente a casa di questa, e quindi era inglobato in un sistema in cui ipso facto era un membro della famiglia che accidentalmente è stato oggetto di un problema, ma la famiglia e il clan predominano con i loro interessi e le loro priorità su qualsiasi esigenza o diritto della singola persona. Vi faccio riflettere su una frase di Martina, e su questo poi diamo la linea al traffico, che alla fine dice tutto questo servirà per tenerci ancora più uniti dopo. Se ci va bene, saremo ancora più uniti, saremo indissolubilmente legati da un segreto che nessuno di noi potrà più rivelare nella sua esatta realtà, e farà sì che ognuno sarà padrone e schiavo di tutti gli altri. Ci fermiamo un istante, tra poco. Melog, cronache meridiane. .800240024, siamo partiti dal caso di Ladispoli, dell'omicidio di Marco Vannini, ucciso dal padre della fidanzata, in un clan familiare coeso in cui c'erano fratelli, fidanzata del fratello, madre, padre, che si è immediatamente cementificato nell'idea di farla franca, di salvare il segreto di famiglia, di sacrificare la vita di questo ragazzo, poteva forse essere salvata, in nome di una sorta di familismo amorale, come appunto viene definito e viene ribadito dal nostro ospite Giuseppe Neri. E in quel caso il tema da salvare era il lavoro del padre, quindi probabilmente il benessere della famiglia, i benefit che derivano da un padre che lavora in posti ufficiali alti di Palazzo Chigi, quindi evidentemente c'era tutto un irrinunciabile status che valeva la pena di sacrificare, per cui valeva la pena di sacrificare questo ragazzo. Mi scrive un ascoltatore, dice: mi ricordano la scena del Padrino dove Michael Corleone dice a suo fratello maggiore di non schierarsi più contro la sua famiglia. Luca, buongiorno. Buongiorno, io sono rimasto in linea per un po', quindi in parte alcuni argomenti sono stati... Sì, ma esprima il suo pensiero. Il mio pensiero è che al di là della coesione dei vari componenti della famiglia ci sia questa personalità predominante del padre, e quindi temo che la sua forza di persuasione nei confronti del resto della famiglia venga ancora prima dei temi che stava dicendo adesso. Ecco, non trova c'è anche un senso proprio epico, quasi mitologico? Un padre che spara a un ragazzo nudo dentro la vasca da bagno, c'è ancora la pistola in mano, è un po' difficile dirgli non sono d'accordo con te anche emotivamente, o un uomo in generale per la fidanzata del figlio? Sicuramente, e spero anche che la cosa verrà fuori, perché dato anche il ruolo che ha questa persona, credo che sia di per sé un fatto che lascia allibiti, insomma, che questo impugni la pistola per far chissà che cosa, se c'era una lite o se invece voleva solo fare lo sbruffone, insomma. Sì, questo, diciamo, ci sono varie ragioni per il ruolo che ha. Ci sono varie versioni, poi adesso con Giuseppe Neri le toccheremo, ma soltanto per completare il racconto, non che per noi sia fondamentale. Giuseppe Neri. No, voglio dire, senza voler fare un pochino discorsi da scompartimento ferroviario anni 50, però Chi di noi si immagina che il fidanzato della figlia viene a casa, si mette nudo nel bagno e tu, padre di tua figlia che è la fidanzata, gli fai visita con una pistola in mano e lui, nudo dalla vasca da bagno, ti dice: mi fai vedere come funziona? Allora ecco, questa ricostruzione, che è una di quelle che è stata proposta, già un pochino di dubbi li mette, mentre, come diceva il nostro ascoltatore, il fatto che sia un militare, una persona che probabilmente lavora per i servizi ed è distaccato a Palazzo Chigi e che, come molti militari, ha un rapporto particolare con le armi, può capire che uno manipolasse l'arma, però manipolando l'arma e entrando con un'arma carica, con un colpo in canna, in una stanza, in questo caso la stanza da bagno, la consapevolezza che ci fosse un rischio correlato a questo è elevata. Tanto è vero che in una delle tante intercettazioni risulta che la figlia avesse detto: papà, ma io te l'avevo detto che non la dovevi fare, dovevi stare attento, hai visto che succede? Ma una volta che è successo, tutto questo vale molto poco, perché la priorità è un'altra. Papà ha sempre fatto del bene, papà è il cardine intorno al quale il nostro sistema familiare e tutti i benefici che ne derivano si fonda, questo fondamento non va intaccato a nessun costo e tutto il resto viene dopo, compreso il mio fidanzato. Quindi anche se mai fosse, e non è compito nostro accertarlo, stata una sorta di esecuzione capitale determinata dal padre, comunque sia è accettata, è un giudizio supremo che il clan della famiglia non mette assolutamente in discussione. Avevano litigato, vicino hanno sentito litigi fra il padre e il fidanzato, ma questa è roba degli inquirenti, comunque vada, erano stati tutti testimoni della fucilazione in una vasca da bagno di un ragazzo e nessuno ha pensato semplicemente dire salviamo la vita a questo ragazzo, no, salviamo tutto quello che comporta salvare la rispettabilità del padre. Emanuela, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, io pensavo, forse mai il mio intervento c'entra come i cavoli a merenda. Comunque questa cosa qui di voler coprire a tutti i costi certe malefatte a discapito dell'onore della famiglia è più comune di quello che uno non pensi, secondo me. Ma sa, con un omicidio, esempio, con un ragazzo sanguinante in casa che sta per morire, no, è un pochino più... faccio riferimento alla pedofilia. Ah sì. Perché quando succedono queste cose, che solitamente la famiglia ne è sempre al corrente, è difficile che passi. Cioè le moleste da parte di qualcuno in famiglia su un bambino, ecco. Sì, infatti. Dopo la famiglia coesa, il bambino rimane vittima, ma la famiglia coesa difende l'onore del padre, della madre, di tutto il contesto, pure gli altri figli e quant'altro, pur di non vedersi danneggiati all'esterno, e si dimenticano che alla fine danneggiato il bambino. Ma conosce episodi del genere, perché ce lo racconta, o è una sua deduzione? No, conosco episodi del genere perché è successo a me. Alla fine... Cosa le è successo? Vicino di casa, pedofilo, quando è saltata fuori la cosa, ordinato di tacere. Ma lei quanti anni aveva, signora? Io ne avevo 11. A 11 anni è stata molestata da un pedofilo amico di famiglia? Sì. Ma ripetutamente... Quindi ordinato di tacere, ordinato di non dire niente al nonno, ordinato tutte queste cose. Lei l'ha raccontato in famiglia questa cosa? È venuta fuori perché l'ha detto mia sorella, perché avevo più confidenza con i miei genitori. Però dopo tutto è rimasto taciuto, si è rimasti ad abitare lì altri 4-5 anni. La moglie di questo signore continuava a frequentare la famiglia e quant'altro. Solo che ti ammazza dentro una cosa del genere. No, scusi, solo per capire. Voglio capire, scusi, un vicino di casa abusa di tua figlia. Per quale ragione dovresti salvare il vicino e non... c'è un motivo? Lei me lo deve spiegare dov'è questo motivo. Alla fine mi sembra molto simile. Ma era una persona potente, una persona che erano molto amici. Perché devono salvare questo signore? Guardi, io l'ho visto solamente come una facciata del tipo chissà cosa dice la gente. Ma cosa faceva di mestiere questo signore qua? Faceva il benzinaio, mica niente di che, cioè non è mica una cosa assoluta, niente a che vedere con Palazzo Chigi o con altre cose. Cioè sarebbe stato uno scandalo per la famiglia andare a un processo dove una figlia era stata abusata dal vicino di casa. Cioè non se ne parla neanche, cioè non se ne parlava più, come se nulla fosse. Quindi diciamo l'integrità della figlia, l'integrità psichica, no, naturalmente. Quello non importa più. Quindi io penso che queste questioni morali, familiari, creano dei legami fra i componenti che delle volte sono malati. Cioè tutti i complici del pedofilo ad anni della figlia. Resta in linea, Giuseppe Nera, questa nostra ascoltatrice, cosa hai da dire? Beh, la prima cosa che mi viene in mente sentendo la signora è che, per esempio, io mi immagino che questo sia successo a suo tempo non nel profondo sud, ma dall'accento della signora in Emilia, immagino. E questo ci dà l'idea di come pervasiva sia questa tendenza. E poi di come la, tra virgolette, onorabilità dell'immagine della famiglia, indipendentemente dal fatto che in questo caso non si sta coprendo qualcuno che ha commesso qualcosa che nei fatti può diventare un reato anche molto grave, ma che ha subito, prevale all'interno di quel sistema familiare la necessità di tutelare l'immagine della famiglia, perché sarebbe disdicevole che in quella famiglia ci sia una ragazza, che è una bambina, che è stata oggetto di questo, perché comunque ne potrebbe ricadere una cattiva immagine, rispetto agli interessi e alle esigenze di tutelare una preadolescente che è stata vittima di una violenza per la quale, o comunque di una molestia, per la quale aveva tutta la necessità di avere il massimo sostegno della sua famiglia. E questo, mi corregga la signora, è successo in Emilia e non nel profondo sud. Mettici un altro, Mettici un altro elemento, signora e Giuseppe. Non dimenticare una dichiarazione ufficiale di un prete o di un vescovo, addirittura accusato con dati oggettivi di pedofilia, dice: ma sono loro i bambini che ci seducono. E la bambina in questo caso viene attribuito un potere seduttivo che era meglio che non si sapesse. Forse avevano anche vergogna che lei avesse in qualche maniera provocata questa cosa. C'è anche questo fatto, può essere? Ma guardi, secondo me il problema dopo te lo buttano come colpa, perché io mi ricordo solo mia madre che mi prese per un braccio, mi guardò negli occhi e mi disse: non dire niente a tuo nonno. Cioè, quindi te lo porti dietro come una colpa per sempre. Vabbè, se ne faccia, è brutto dirlo perché lo ragiona sulla sua pelle, è una cosa che lei avrà probabilmente avuto modo nel tempo di elaborare in maniera molto dolorosa, però adesso l'ha potuta dire, e bene o male. Prego, Beppe. No, mi viene in mente da questo dettaglio che dice la signora un altro aspetto quando parlavamo di clan familiare. Nella gerarchia dei valori la signora sta parlando del nonno, quindi chi comandava e chi decideva quello che bisognava fare in quel clan familiare non era il papà e la mamma della ragazza, ma era il nonno. La mia persona di riferimento era mio nonno, quindi andava fuori, quindi come lo so le mie sorelle avevano più confidenza con i miei genitori, io il mio punto di riferimento era mio nonno, quindi mia madre più che altro avevano paura che mio nonno in qualche modo facesse qualche cosa per rimettere in ordine questa situazione. Cioè andasse con un bastone in mano dal vicino di casa, infatti, e facesse infatti. Che era l'unico uomo con le palle in famiglia, onestamente. Sì, bravissimo, bravissimo. Quindi avevano paura che l'unico uomo con le palle in famiglia facesse quello che veramente andava fatto. Desse, non dico adesso una vendetta rusticana nei confronti, ma perlomeno prendesse un provvedimento. Quindi tu... sì. Ma lei negli anni di questa cosa non ha più parlato con i suoi familiari? Sono passati tanti anni. È stato sempre negato. Cioè anche le mie sorelle hanno negato in tutta questa cosa. Cioè quindi alla fine tu ti porti dietro un senso di colpa che non puoi neanche di parlarne. Affronti una vita sessuale sbagliatissima con degli uomini sbagliatissimi, tanto che mi sono ritrovata ragazza madre. Cioè quindi alla fine ti uccide dentro, come quel ragazzo che è morto dentro la vasca. Che con i familiari che hanno chiuso gli occhi, a me mi hanno ucciso dentro quel giorno lì. Ma l'unica senso che ha dato questa telefonata, che altre persone che sono passate, ce ne saranno tante in situazioni simili, oggi avranno uno stimolo in più per non doversi tenere dietro tutta la vita a questo tipo di segreto. Si può anche denunciare senza il consenso dei genitori, si possono fare anche azioni individuali, costano molto di più, ci si trova soli, ma vale la pena per non trovarsi come la nostra cara ascoltatrice dopo tutto questo tempo a doverlo dire alla radio. E poi l'aveva raccontata qualcun altro prima di averlo raccontato a noi, oltre alla sorella? Ha cercato aiuto in uno psicologo, in un qualcuno? Sì, ma lei non può neanche immaginare questa cosa come viene rifiutata. Da lei stessa? Ma dalla gente in genere, come sembra quasi che una cosa che debba passare tipo l'olio, capito? Come l'acqua con l'olio. Eh sì, ma come fa a passare l'acqua? Cioè io me ne rendo conto. Non lo so, guardi, neanche io riesco a capirmi com'è questa cosa. Concludi te, Beppe, con la nostra ascoltatrice. No, è una ferita che è evidente che rimane ancora aperta, però quello che diceva Gianluca forse è importante anche per chi ci ascolta. Lei, signora, aveva avuto modo di parlarne anche al di fuori dell'ambito familiare in passato di questa cosa? Dunque, io Mi ho presa la consapevolezza che avevo 37-38 anni, che era successo qualcosa che non andava nella mia vita, perché avevo cominciato un percorso psicoterapeutico. E, però un appoggio in casa della serie ti chiediamo scusa, abbiamo sbagliato, cose del genere, assolutamente no. Quindi è una fatica che dopo ho dovuto portare avanti tutta da sola, come percorso personale. Perché comunque dall'altra parte c'è sempre la negazione dei fatti. Però a quell'età è riuscita a aprire un percorso, a iniziarlo, e penso che questo in qualche modo le abbia dato la possibilità di affrontare questi temi. Grazie. Grazie, alla prossima. Melog. Cronache meridiane. Roberto, buongiorno. Roberto? Roberto stava in ascolto. Quando si accorge, lo stiamo chiamando alla radio, forse ci risponde Roberto. Cioè, in questi ambienti certe cose si lavano così. Sentiamo Sergio, buongiorno. Salve, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Senta, io volevo esprimere la mia opinione per quanto riguarda il ragazzo dentro ucciso con malamente. Allora, sento che si parla sempre e si dà una valenza che secondo me non appartiene a questo signore che ha scarrellato la pistola, che appartiene a un'organizzazione militare che effettua un servizio presso un istituto o di alto livello come la Presidenza del Consiglio, mi sembra. Sì. Valenza che non dobbiamo assolutamente sottolineare. Questa persona fa parte di un'aberrazione che ogni tanto accade anche all'interno delle istituzioni, e ci sono persone che fanno una carriera e non ne hanno nessun merito, e questo signore lo ha certificato. Una persona che, io vengo da una famiglia di estrazione militare, faccio il lavoro che sono chiamato a rappresentare lo Stato, bisogna fare la cosa giusta nel momento giusto. Le leggi sono la guida di un cittadino, specialmente uno che si vuole erigere o appartenere a qualche cosa tra virgolette di elite. Questo signore ha commesso un sacco di aberrazioni. Lei dice non può essere la regola, ma non attribuiamo a questo una regola. Non è la regola questa persona. Tanto più non è la regola, mi scusi, anche da un punto di vista puramente tecnico. Un militare a quel livello, diciamo, di responsabilità non gioca con una pistola carica. Bravo, questa persona è arrivata lì per un'aberrazione del sistema. Accade, sa? Accade. No, figuriamoci. Ecco, che ci troviamo delle persone dentro un entourage e uno si chiede ma come hanno fatto ad arrivare lì? Per una serie di motivi. Bene, certo non leciti o tantomeno... proprio il sistema che produce ciò. Perciò questa persona è bene che venga poi sentenziata a secondo le leggi, che poi non si salti fuori con le attenuanti generiche e tutto, perché questa persona a mio avviso merita che venga che subisca un processo, lui, la sua famiglia e tutto. Al momento non seguiamo, abbiamo seguito al momento quello che si dice in televisione, è diventato un evento mediatico, quello che avverrà nell'aula del tribunale, abbiamo pieno rispetto e fiducia nei magistrati che se ne stanno occupando. Magdalena, buongiorno. Sì, buongiorno. Anch'io volevo dire la mia, che anche da noi c'è un segreto, da me c'è un segreto di famiglia. Praticamente anch'io sono stata abusata a quasi 12 anni da un pastore evangelico che abitava in casa mia. Lui è stato scoperto sul fatto nella notte, quando stava in cameretta mia, comunque io lo facevo ai 2 anni. Da quella notte lì tutta la famiglia l'ho accolto sul fatto, comunque da quella notte lì l'ho cacciato via. Dal giorno seguente non se ne è parlato, per vergogna, e io fino adesso mi sono sentita anch'io colpevole, la vergogna, cioè io avevo vergogna, però adesso non c'ho più vergogna perché... Quanti anni fa è accaduto, Magdalena? Adesso ho 29 anni, faccio il conto lei. E questa cosa poi dopo come l'ha elaborata nel tempo? È continuata a rimanere in famiglia? Non avete più parlato? No, non ho mai parlato, c'era un certo imbarazzo. Io da quel momento lì non ho più guardato negli occhi i miei fratelli, mio papà. Perché tutti lo sapevano, chiaramente se l'hanno colto sul fatto lo sapevano tutti. Tutti, sì, infatti lo hanno cacciato via, ma io mi domando adesso perché non l'hanno denunciato, perché non si è fatto giustizia Perché? Perché io fino adesso mi sono sentita colpevole, cioè anch'io mi sono sentita colpevole. Ma lei che colpa ha? Scusi, Maddalena, che colpa ha lei? Nessuna. Adesso io lo so che ero la vittima, ero una bambina. Adesso sì, infatti adesso quando vado nel mio paese Perù parlerò con tutti loro, perché dovevano denunciarlo, ma là c'è questa vergogna che tanto che diranno le altre famiglie, che penseranno di te. Una bambina di 11 anni non può provocare un pastore evangelico a che abusi di lei, no, assolutamente. Giuseppe Neri. No, l'unico dubbio, la famiglia sua, signora Maddalena, è evangelica anche la sua famiglia? Era la stessa? Mio papà è molto, sì, i fratelli no. No, mio papà sì, come noi abbiamo la mamma comunque. Quindi era un pastore che aveva una certa autorevolezza dal punto di vista del mondo religioso, perché era un pastore, sì, della vostra religione. Sì, era un pastore. Era come da noi trovare il parroco a letto con la figlia, ho capito. Sì, però è un pastore che faceva il suo lavoro di pastore. Sì, sì. Era sì, un pedofilo. Certo. Non è proprio il lavoro del pastore. Esatto. Denunciarlo con più ragione, perché poteva abusare anche di altri bambini. Ma lo farà sicuramente. Ma Maddalena, accade adesso, non vogliamo. Non è che accade in qualsiasi tipo di consesso legato appunto da un culto religioso. Ci sono le parrocchie che scendono in piazza a manifestare perché non li cacciano il parroco preso in flagrante a fare esattamente le stesse cose. Ci sono vescovi che riempiono comunque di cortei di persone acclamanti, anche se sono stati presi appunto nel fatto esattamente come il pastore evangelico. Ahimè, la religione, come appunto il rigore militare, è una delle altre maniere che tiene le persone in un velo di timore nel dire quella che sia la verità. Corrado, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, tanti spunti da tutto quello che si è sentito fino adesso, perché sembra, come prima accennava, che ci sia proprio un problema nel benessere ricercato con così tanto affanno dalla famiglia, come la descriveva prima, perfetta, ideale, no, davanti a tutti, perché proprio di facciata. Però questo succede, no, goccia dopo goccia, settimana dopo settimana, anno dopo anno. E questo forse fa sì che questo tessuto si cimenti, cioè questo tessuto di connivenza che lei dice, no, tra virgolette, quasi come se fosse mafiosa, in realtà si rafforza giorno dopo giorno, mese dopo mese, esperienza dopo esperienza. Quindi sembra quasi che alla fine la sorella, la figlia di questo, se i fatti sono andati come nelle tante ipotesi che sono state sentite, che poi la figlia fosse quasi d'accordo di togliersi dalle scarpe il fidanzato, perché alla fine forse al padre non era poi così tanto gradito, e quindi troviamo un modo per levarcelo dalle scatole, quando poi uno se lo leva dalle scatole in realtà sono tutti contenti. Quindi era una esecuzione programmata, quello che pensa anche Marco probabilmente. Marco, buongiorno. Buongiorno, volevo dire la mia testimonianza, il mio pensiero. Secondo me l'ufficiale ha perso la testa e ha fatto fuori il, per gelosia, non so per cosa, ha fatto fuori il fidanzato. E qua non c'è più, appunto, questo qua è il mio giudizio. Volevo suggerire la roba, fa una trasmissione sull'educazione stradale. Ne ho fatte tante, poi adesso c'entra come parente come cavoli a merenda, mi scusi, non è proprio il caso. Due cose sottopongo a Beppe Neri, due sms. Gli sms molte volte sono la forma di feedback che uso meno, perché uno manda un sms, non entra in gioco, non parla e tutto. Primo, uno dice, ma telefonata tutta da verificare, cioè mette in dubbio che queste due testimonianze di donne violentate possano essere attendibili, tipico pregiudizio che nell'aula dei tribunali ha causato molte volte l'impossibilità di punire i colpevoli. E un altro dice, Nicoletti, lei non ha capito un cazzo di questa signora e del suo dramma. Cosa che non ho capito, probabilmente non ci sono passato, questo lo ammetto, ma non è colpa mia. Giuseppe Neri, a te la conclusione. Ma niente, uno probabilmente afferisce alle sensibilità percepite dall'ascoltatore rispetto al tuo modo di fare le domande alla signora Emiliana, ma questo riguarda... Io non mi metto a piangere, ma nemmeno individuale. Devo raccontare le mie vicende personali tristissime, quindi perché dovrei piangere? Faccio il mio mestiere, faccio domande. Circa la veridicità delle telefonate, lo capisco, io sono stato per molti anni, e lo sono ancora, un ascoltatore di Radio 24, il dubbio da ascoltatore mi è venuto, vedendo le cose un po' più da vicino devo dire che ho l'esperienza che piovono telefonate da persone reali, e l'esperienza delle persone nella vita, cioè ciascuno di noi ha occasione di interagire con i suoi simili, beh, questa esperienza gli insegna che la realtà è molto molto più ricca e molto più avanti di quello che noi possiamo immaginare. Ecco, ti faccio un'ultima domanda. visto che si tende tanto a salvaguardare i modelli tradizionali della famiglia, la famiglia, per la tua esperienza proprio che hai sondato, visto, analizzato, un neurologo, uno psichiatra, l'animo umano, c'è proprio nel meccanismo della famiglia anche questo meccanismo, se vuoi perverso, ma che è anche il collante, tenere insieme le persone, di nascondere cose indicibili e essere uniti anche sulle cose che non si dovrebbero dire, non si dicono. Fa parte sarebbe, della famiglia. Sarebbe secondo me superficiale e ipocrita negare che esista questa radice. Il cuore del problema nelle varie società e nei vari livelli di avanzamento è quale, dove si mette l'asticella, nel senso che quando in gioco una vita di una persona, la sopravvivenza, quando una persona è in pericolo di vita, secondo me qualsiasi vincolo dovrebbe saltare, perché significa tenere come primo riferimento la difesa della vita umana e della dignità di una persona. Al di sotto di questo ci sono vari livelli, ma quando c'è in ballo la vita di una persona, pur esistendo questi limiti o questi problemi intrafamiliari, secondo me la priorità dovrebbe essere tutelare il rispetto e la difesa di una vita. Grazie Giuseppe Neri, grazie agli ascoltatori. Alla prossima.